Settimo canto del Purgatorio dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio. Settimo canto. Poscia che l'accoglienze oneste e liete furu iterate 3 e 4 volte, Sordel si trasse e disse: «Voi chi siete?» Anzi che a questo monte fosser volte l'anime degne di salire a Dio, fur l'ossa mie per Ottavian sepolte. Io son Virgilio, e per null'altro rio lo ciel perdei che per non aver fe. Così rispuose allora il duca mio: «Qual è colui che cosa innanzi sé subita vede onde si maraviglia? Che crede e non, dicendo, ella è, non è?» Tal parve quelli, e poi chinò le ciglia, e umilmente ritornò ver lui, e abbracciò l'ave il minor s'appiglia. «O gloria di Latin!» disse, «per cui mostrò ciò che potea la lingua nostra. O pregio eterno del loco ond'io fui! Qual merito o qual grazia mi ti mostra? S'io son d'udir le tue parole degno, dimmi se vien d'inferno e di qual chiostra.» «Per tutti i cerchi del dolente regno», rispuose lui, «son io di qua venuto. Virtù del ciel mi mosse e con lei vegno. Non per far, ma per non fare ho perduto a veder l'alto sol che tu disiri e che fu tardi per me conosciuto. Luogo è laggiù non tristo di martiri, ma di tenebre solo, ove i lamenti non suonan come guai, ma son sospiri. Qui vi sto io coi pargoli innocenti, dai denti morsi della morte avante che fosser dall'umana colpa essenti. Qui vi sto io con quei che le 3 sante virtù non si vestiro e senza vizio conobber l'altre e seguir tutte quante. Ma se tu sai e puoi alcuno indizio da a noi perché venir possiam più tosto là dove purgatorio ha dritto inizio.» Rispuose: «Loco certo non c'è posto, licito m'è andar suso e intorno, per quanto ir posso, a guida mi t'accosto. Ma vedi già come dichina il giorno, e andar su di notte non si puote, però è buon pensar di bel soggiorno. Anime sono a destra qua remote, se mi consenti, io ti merrò ad esse, e non senza diletto ti fier note.» «Com'è ciò?» fu risposto. «Chi volesse salir di notte, fora elli impedito d'altrui, o non sarria che non potesse?» E il buon sordello in terra fregò il dito, dicendo: «Vedi, sola questa riga non varcheresti dopo il sol partito. Non però ch'altra cosa desse briga, che la notturna tenebra a dir suso, quella col non poder la voglia intriga. Ben si poria con lei tornare in giuso e passeggiar la costa intorno errando, mentre che l'orizzonte il dì tien chiuso.» Allora il mio signor, quasi ammirando: «Menane», disse, «dunque l'ave dici, ch'aver si può diletto dimorando.» Poco allungati c'eravam di lici, quand'io m'accorsi che il monte era scemo, a guisa che i vallon li sceman quici. «Colà», disse quell'ombra, «n'anderemo, dove la costa face di sé grembo, e là il nuovo giorno attenderemo.» Tra erto e piano era un sentiero schembo, che ne condusse in fianco della lacca, là dove più ch'a mezzo muore il lembo. Oro e argento fine, cocco e viacca, indaco, legno lucido e sereno, fresco smeraldo in l'ora che si fiacca, dall'erba e dali fior, dentro quel seno posti, ciascun saria di color vinto, come dal suo maggiore è vinto il meno. Non avea pur natura ivi dipinto, ma di soavità di mille odori vi facea uno incognito e indistinto. Salve, regina, in sul verde e in su fiori, quindi seder cantando anime vidi, che per la valle non parean di fuori. Prima che il poco sole omai s'annidi, cominciò il mantoan che ci avea volti, tra color non vogliate ch'io vi guidi. Di questo balzo meglio gli atti e i volti conoscerete voi di tutti quanti, che nella lama giù tra essi accolti. Colui che più siede alto e fa sembianti d'aver negletto ciò che far dovea e che non muove bocca agli altrui canti, Rodolfo imperador fu, che potea sanar le piaghe c'hanno Italia morta, sì che tardi per altri si ricrea. L'altro che nella vista lui conforta resse la terra dove l'acqua nasce, che molta in Albia e Albia in mar ne porta. Ottacchero ebbe nome, e nelle fasce fu meglio assai che Vincislao suo figlio barbuto, cui lussuria e ozio pasce. E quel nasetto che stretto a consiglio par con colui c'ha sì benigno aspetto, morì fuggendo e disfiorando il giglio. Guardate là come si batte il petto. L'altro vedete c'ha fatto alla guancia della sua palma, sospirando, letto. Padre e suocero son del mal di Francia, sanno la vita sua viziata e lorda, e quindi viene il duol che sì li lancia. Quel che par sì membruto e che s'accorda, cantando con colui dal maschio naso, d'ogni valor portò cinta la corda. E se re dopo lui fosse rimaso, lo giovanetto che retro a lui siede, ben andava il valor di vaso in vaso, che non si puote dir dell'altre rede. Iacomo e Federigo hanno i reami, del retaggio miglior nessun possiede. Rade volte risurge per li rami l'umana probitate, e questo vuole quei che la dà, perché da lui si chiami. Anche al nasuto vanno mie parole, non menca l'altro Pier che con lui canta, onde Puglia e Proenza già si dole. Tant'è del seme suo minor la pianta, quanto più che Beatrice e Margherita, Costanza di marito ancor si vanta. Vedete il re della semplice vita seder là solo a rigo d'Inghilterra, questi ha nei rami suoi migliore uscita. Quel che più basso tra costor s'atterra, guardando in suso, è Guglielmo Marchese, per cui e Alessandria e la sua guerra fa pianger Monferrato e Canavese. Fine del settimo canto del Purgatorio.